Yeah, H2M Remix, ok? Viole Mauri. Viole Mauri. Eccoci guerrieri senza armi e senza colpi, solo dubbi, tra le mani stanche dei tuoi mali, arrampicate ad un domani che ci vede ancora complici. Eccoci Viole Mauri. Eccoci guerrieri senza armi e senza colpi, solo dubbi, tra le croci affitte dei tuoi mani, arrampicate alla passione che ci rende vivi e complici. Eccoci Viole Mauri. Ancora in gioco, cercando una risposta dentro l'animo ossa rotte, ma pronta a nuove lotte. Eppure ho solo i miei fantasmi dentro questa notte, solo note troppo basse per oscillazioni isteriche. L'urlo del mio strazio è morto nel silenzio, ho interrotto il canto nel ventre del lamento. Ho smesso di cercare il motivo del tuo male, da quando nel tuo braccio io ho iniziato le mie pene. Ed ora fuoco nelle vene, orgoglio lo si vede nei miei occhi, adesso tocchi le croci che ho portato fino ad oggi. Ed oggi tu mi implori, perché adesso sono io la regina dei tuoi incubi. Ed ora guardami, te la ricordi la paura che tu hai usato per avere dei discepoli? Io sono quella che tu avevi condannato al pianto, quella che ha perso la serenità del suo sorriso. Tu mi hai maledetto ed escluso dal tuo cielo, io ho vinto la mia sete grazie al tuo veleno, grazie agli amici che mi sono stati accanto, angeli con i quali condivido i miei migliori testi. Bella Mauri. Eccoci guerrieri senza armi e senza colpi, solo dubbi, tra le mani stanche dei tuoi mali, arrampicati ad un domani che ci vede ancora complici. Eccoci Viole Mauri. Eccoci guerrieri senza armi e senza colpi, solo dubbi, tra le croci affitte dai tuoi mani, arrampicati alla passione che ci rende vivi e complici. Eccoci Viole Mauri. Attimi di panico, tutto quello che ho creato sembra che cada peggio di un domino. Riesamino, chi sono, che ci faccio qui? Rilaccio ogni pensiero con il vero, ma tutto mi sembra un film, purtroppo adesso va così. La confusione mi accompagna, il pessimismo che regna, mentre mille gocce d'odio bagnano il posto in cui abito, tutto a discapito delle persone a cui dedico il corpo e l'animo. Tra mille dubbi una certezza ce l'ho, Violetta ed MC Doc, e degli amici che son certo mai non lascerò. Per questo so che inevitabilmente lo sconforto passa lentamente, lascia posto a tutto quello che è nascosto nella mischia esposto. Riconosco che sono un uomo in quanto tale, spesso sbaglio, nella notte lucciole mi sembra lampade, ma poi ritaglio scampoli di vita che restano e non mi lasciano. Eccoci guerrieri senza armi senza colpi, solo dubbi, tra le mani stanche dei tuoi mali, arrampicate ad un domani che ci vede ancora complici. Eccoci Viole Mauri. Eccoci guerrieri senza armi senza colpi, solo dubbi, tra le croci afflitte dai tuoi mali, arrampicate alla passione che ci rende vivi e complici. Eccoci Viole Mauri. Adesso è il tempo di sbrigare nuovi affari, adesso non ti sente più nessuno se tu chiami, adesso è la mia voce che rischiare il mio domani. Adesso siamo ad armi pari e tu scompari, adesso prendo ogni ricordo, lo dissolvo e poi t'assolvo. Adesso piangi ogni tuo sbaglio nel momento del perdono, un mio bacio ed un sorriso sono l'unico tuo inferno. Adesso io ti dono il cuore che tu avevi condannato, pregherò per la tua misericordia. Non c'è rabbia, è diventata pena, troverai riparo e casa dentro la mia anima. Io ti amerò e ti darò il meglio di me stessa, è la nostra musica, questa è la rivincita. Un altro palco, un altro show, un altro viso pronto a fottermi che sai non scorderò. Mi guardo in giro da miro, rimiro non aggressivo, rispondo con un sorriso al destino. Stammi vicino bambino, la notte ti spaventa a morte, ecco un po' di mattino alle porte, devi essere forte. Più volte quando intorno al mondo si vede grigio, lo sfondo è malvagio, regna la boria ed il plagio. Io me ne vado, vivrò per me, per chi con me seguo un filo conduttore, proprio come se la vita fosse un gioco di squadre. Per vincere bisogna crescere, stirpando la base, il malessere.